Scegli me. Siamo il quadro che non ho mai visto nei musei. Scegli me. Che le piazze e monumenti avranno da invidiarci. Scegli me. Tra le cose che lasciano segno ci sei. Scegli me. Voglio scoprirti come un continente. Scegli me. Perché da soli non si è buoni a niente. Salvami. Come solo nei libri. Come solo tu. Tu. Tu che mi rimani in mente come una canzone. Sei tu che dici che l'amore è l'unica occasione. Vienimi a prendere, vienimi a prendere. L'indirizzo lo sai. Sceglimi, sceglimi. Nessuna capitale al mondo può competere. Sceglimi. Con le pieghe dei nostri vestiti attorno al letto, scegli me. Tra le cose che lasciano il segno, ci sei sempre stata tu, sempre stata tu. Tu che mi hai insegnato il cielo come un aviatore. Tu che non è tutto un casino, tu che non è tutto già scritto. Sei tu che dici che l'amore. Vienimi a prendere, tu vienimi a prendere. Vienimi a prendere al più presto perché qui diluvia. Ti stringo forte tra le labbra, non aver paura. Lascia che la pelle resti nuda. Stringimi per sempre, sei tu che dici che l'amore è l'unica occasione. Scegli me.